Casey Jones, he was a mighty man, but now he's resting in the promised land. The kind of music he could understand was an eight-wheel driver under his command. He made the freight train boogie all the time. He made the freight train boogie as it rolled down the line. He made the freight train boogie all the time. He made the freight train boogie as it rolled down the line. Let me hear you, son. Started ringing the bell, everybody hung around could tell. Casey Jones was a coming to town on a 6-8 wheeler that was flat on the ground. He made the freight train boogie all the time. He made the freight train boogie as it rolled down the line. He made the freight train boogie all the time. He made the freight train boogie as it rolled down the line. Here come Don Reno. Eh sì, quando arrivano richieste come quella che mi è arrivata la scorsa settimana, o qualche brano, fatemi sentire qualche brano di Don Reno, non solo a questo tipo di richieste io ubbidisco immediatamente, ma di fronte a richieste di questo tipo io quasi mi emoziono. Già, perché evidentemente chi segue questa trasmissione è particolarmente pronto, è particolarmente preparato, è particolarmente già appassionato, perché richiedere Don Reno, insomma. Don Rino, che dire di questo fantastico musicista che ci ha lasciato ormai tanti anni fa? Era il 1984, il 16 ottobre del 1984. Lui arrivava dalla South Carolina, classe 1924, quindi è morto neanche troppo anziano, è morto per una brutta malattia. Ha lasciato tre figli bravissimi a suonare anche loro musica bluegrass e country, e ha lasciato una montagna di dischi e un grande ricordo, perché è stato uno dei migliori musicisti bluegrass di tutti i tempi, un grande musicista che si è fatto conoscere più per il banjo. Ma quel Don Rino che avete ascoltato adesso duettare con Tony Rice, alla voce c'era lo stesso Tony Rice, in questa canzone di un disco davvero difficilmente reperibile oggi come oggi, un disco uscito nel 1984 e registrato pochi mesi prima che morisse. Questo disco dal quale abbiamo tratto Freight Train Boogie, un classico del country blues, direi, una canzone tratta appunto dal disco intitolato Family and Friends, la sua ultima fatica discografica prima di lasciarci appunto il 16 ottobre del 1984. E lui era famoso come per essere l'ottimo banjoista che era, e avete sentito come suonava la chitarra. Allora, quanto bene suonava il banjo? Beh sì, era particolarmente dotato come banjoista, ha fatto una grande, lunga e meravigliosa carriera, suonato con Bill Monroe e per tanto tempo con Red Smiley, un cantante country, il repertorio che affrontavano era decisamente country, si erano fatti conoscere negli anni 50 e 60 e sono andati avanti fino alla fine degli anni 60. Ci andiamo ad ascoltare una canzone, visto che ci hanno richiesto Don Rino, assolutamente almeno un paio dobbiamo sentire. Questa volta Don Rino tiene tra le mani un banjo a 5 corde, sentitelo suonare in questa Wreck of the Old 97, alla voce era Red Smiley, 1971. They gave him his orders at Monroe, Virginia, saying, "Steve, you're way behind time. This is not 38, but old 97, you must put her in dispenser on time." He looked around to his black and easy fireman to shovel in a little more coal. And when we crossed that white old mountain, you can watch old 97 roll. It's a mighty rough road from Lynchburg to Danville, and a line on the 3 mile grade. It was on that grade that he lost his air brakes, and you see what a jump he made. He was going down the grade doing 90 miles an hour, and the whistle began to scream. He was found in the lane with his hand on the throttle and was scalded to death by the steam. Come all you ladies and take my warning from this day and learn. Never speak harsh words to your true loving husband. He may leave you and never return. The Wreck of the Old 97, una canzone che parlava di un disastro ferroviario. Una delle tante canzoni dedicate alla ferrovia, i treni sono state dedicate nella tradizione sia bianca, quindi country, che nera, blues, sono state dedicate centinaia e centinaia di canzoni, tant'è che ci sono raccolte discografiche che trattano proprio esclusivamente monotematiche su questo argomento, perché la ferrovia è stato dal punto di vista simbolico, è stato, e non solo simbolico, è stato una grossa una cosa molto importante nello sviluppo di quello che è stata la storia, la società americana. E quindi la ferrovia, non solo dal punto di vista concreto ma anche dal punto di vista metaforico, ha funzionato come argomento per centinaia di canzoni. Questa era una delle tante canzoni dedicate alla ferrovia e dedicate ai disastri ferroviari. Insomma, i treni allora non erano granché sicuri. Bene, manca un quarto d'ora alla chiusura della trasmissione. Io vado avanti con le richieste, accontentando le richieste che mi sono arrivate la scorsa settimana al numero di SMS 338-6171-300. Non lasciamo Don Reno. No, signori, non lo lasciamo, lo continuiamo ad ascoltare, nonostante io passi ad accontentare un'altra richiesta, quella di ascoltare Jerry Garcia. Sì, Jerry Garcia, lui, quello del rock psichedelico, quello dei Grateful Dead, lui, grande appassionato di musica bluegrass, grande appassionato e anche musicista musica, diciamo, bluegrass progressiva, quello che ha fatto lui. Ha spesso staccato la spina nella sua lunga carriera, Jerry Garcia, per suonare in acustico in situazioni più o meno tradizionali. Grande appassionato di bluegrass, suonava il banjo e non lo suonava affatto male, e ve lo farò ascoltare questa sera. Ma io voglio farvi ascoltare Jerry Garcia, almeno un prodotto di Jerry Garcia, perché qui è esattamente nella veste di produttore. Questo disco, che è del 1976, e mi duole dirlo anche in questo caso, vi sto per trasmettere una chicca che davvero mi piacerebbe potervi dire, potervi segnalare in quale negozio poterlo trovare, ma davvero non è così che stanno le cose. Questo disco intitolato Pistol Packing Mama, Packing Mama dei Good Old Boys, così si erano fatti chiamare i Good Old Boys, che erano David Nelson e Frank Wakefield, con Chubby Wise e Don Reno, disco prodotto da Jerry Garcia. È un disco assolutamente introvabile, e per cortesia, doveste mai trovarlo in versione CD, non mi risulta che sia stato poi ristampato, fatemelo sapere, perché quello che vado a presentarvi è un vinile che è stato davvero consumato dalla puntina. Spero che non faccia scherzi. La canzone che apre il lato A, Ashes of Love, e pensate, è entrata anche nel repertorio della Desert Rose Band, una band di country rock tosta. Ci ascoltiamo quindi al Benja Don Reno e la combriccola che vi ha detto poco fa. Sono i Good Old Boys, al mixer e alla produzione Jerry Garcia, Ashes of Love. kisses of love, cold as ice. You made the day, I'll pay the price. Our love is gone, there's no doubt. Ashes of love, the flame burned out. Ashes of love, the flame burned out. Good old boys, good old boys, good old boys. 1976, abbiamo ascoltato i Good Old Boys con Ashes of Love, con uno strepitoso Don Reno al banjo e un altrettanto strepitoso Chubby Wise al violino. E Chubby Wise, voglio ricordarvi, che già a metà degli anni 40 suonava il suo violino per la band, la original bluegrass band di Bill Monroe, e Bluegrass Boys. Country Skyline va ancora avanti per una decina di minuti. Avrei tanto voluto inserire, e probabilmente riuscirò comunque a farlo, uno special piccolo piccolo dedicato a Darrell Scott e Tim O'Brien, così come mi era stato richiesto la scorsa settimana da un'ascoltatrice. Ma voglio andare avanti e chiudere la parentesi Don Reno, Jerry Garcia, California, eccetera eccetera, con il disco registrato dal vivo nel 1973, che porta il nome di Old in the Way, la band di dove Jerry Garcia suonava il banjo. Jerry Garcia al banjo, David Grisman al mandolino, Peter Rowan alla chitarra, Vassar Clemens al violino e John Kahn al contrabbasso. Una band, una super band che ha fatto storia, una cult band più che una super band, perché ha inciso sporadicamente poche cose. Sono uscite postume, nel senso che sono uscite recentemente delle incisioni assolutamente inaspettate di questo quintetto che ha fatto tanto parlare di sé negli anni 70, ma che in realtà ha fatto ascoltare davvero ben poco, perché i musicisti erano tutti quanti impegnati in altre situazioni. Jerry Garcia era nel bello, nel più bello della sua carriera, insieme ai suoi Grateful Dead. Ci ascoltiamo allora gli Old in the Way, spero di fare cosa gradita, mandandomi in onda questa canzone intitolata proprio così, come il nome che porta la band, Old in the Way, scritta da David Grisman e dal vivo nel 1973. I hear tell he was happy. He had his share of friends and good times. Now those friends have all passed on. He don't have a place called home. Looking back to a better day, feeling old and in the way. Old and in the way, that's what I heard them say. They used to heed the words he said, but that was yesterday. Never care about you, call you old and in the way. When just a boy, he left his home. Thought he'd have the world on a string. Now the years have come and gone. Through the streets he walks alone. Like the old dog gone astray, he's just holding in the way. Holding in the way, that's what I heard them say. They used to heed the words he said, but that was yesterday. Words. she said, but that was yesterday. Gold will turn to gray and youth will fade away. They'll never care about you, call you old and in the way. They'll never care about you, call you old and in the way. Journey, il sito internet di approfondimento culturale dedicato alla musica folk americana. Migliaia di articoli, interviste, biografie e recensioni a cura dei maggiori esperti e con la collaborazione di numerose riviste nazionali ed estere. Digita www.bcmai.it. Ti apparirà The Long Journey, il più completo sito italiano di musica roots. www.bcmai.it. He sang a walk on the wild side, last a lifetime with me. I was born and raised in my father's house, can catching rain in the kitchen. He said a good song never comes to those who chase, it comes to those who listen. So I'd listen to him. Waking up in the middle of the night, I know he thought we were sleeping. And with an old melody and a guitar in hand, somewhere between dreaming and weeping, sing a walk on the wild side, last a lifetime with me. I grew up quick in my father's house. Mama, she gave him no daughters. Just look in the eye of a woman in need to be free of a love grown harder. So she hit the road in a Galaxy Ford, the one that my daddy had bought her. And she crossed the tracks and she never looked back. She was humming a song he had taught her. Sing a walk on the wild side, that's a lifetime with me. There was this big black trunk in my father's house where he kept the ledgers he'd write in. So I broke into it before I moved out to see if I could find out more about him. And there were letters written, never sent to my mom, but it's a wonder it never killed him. And there was lines and songs and poetry, damn near as good as Hank Williams. Sing a walk on the wild side, last a lifetime with me. Darryl Scott. Darryl Scott. E con lui e con Darryl Scott che concludiamo la trasmissione questa sera. Oh, avrei voluto dedicare molto più spazio a questo meraviglioso cantautore. Lo faremo la settimana prossima. Sono sicuro che vi troverò ancora sulle frequenze di Rock FM. Country Skyline è il vostro appuntamento e il mio appuntamento con la country music ogni settimana, ogni martedì in diretta. I got rice cooking in the microwave. I got a 3-day beard I don't plan to shave. And it's a goofy thing, but I just gotta say I'm doing all right. Ci risentiamo quindi in diretta martedì prossimo, venerdì in replica. Ci sentiamo anche domani sera, perché no, se volete un po' di rock and roll, sano rock and roll da Garageland. Maurizio Faulisi questa volta in compagnia di Bill Matthews, sempre sulle frequenze di Rock FM. Ci risentiamo molto presto, allora buonanotte e a domani. Why can't every day be just this good? It's been 15 years.